siamo molto preoccupati da tutte le notizie che sono uscite, dalla lettura del contratto vero e proprio sulle carceri, ma più in generale sulla giustizia penale. È prevista la costruzione di nuove carceri, è previsto un maggior ricorso all'internamento dei migranti, la costruzione di nuovi centri per il rimpatrio, è previsto l'allargamento a tutta la polizia dei taser, le pistole elettriche di cui abbiamo scritto in varie occasioni, che è provato che hanno effetti mortiferi importanti, insomma è prevista una riduzione della prescrizione, in generale una riduzione delle garanzie a protezione degli imputati ma anche di tutti i cittadini. Insomma, sembra prevalere una visione della giustizia forcaiola, manettara, e che ci preoccupa e ci inquieta, se questo è quello che risulterà alla fine. In particolare ci sono alcune misure che rispondono proprio, diciamo così, a quello che era un po' il cancan populista, ad esempio la questione della legittima difesa e anche pene più lunghe per i furti. Certamente sono tra gli aspetti più preoccupanti. Quello della legittima difesa, insomma, c'è stato già il dibattito a suo tempo e quei movimenti, questi attori politici avevano mostrato le proprie posizioni. Si vuole andare sostanzialmente in direzione della liberalizzazione totale dell'omicidio. Abbiamo letto della possibilità di sparare legittimamente a chiunque si trovi all'interno della proprietà privata di un'altra persona, cioè vogliono eliminare il principio di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, in barba a qualsiasi principio giuridico. Poi un'altra misura estremamente preoccupante è quella dell'abbassamento dell'età a partire dalla quale si è imputabili e condannabili, che vogliono portare non si capisce bene se a 12 anni o 13 anni o cosa. E infine lei mi diceva sì, per l'inasprimento delle pene per i furti in appartamento anche per i furti, insomma c'è tutto, diciamo, un novero di misure che vengono proposte, che in generale vanno verso l'inasprimento di alcune pene, che sono delle misure del tutto populistiche, di cui è provato che non ci sia efficace, e che derivano dalla vulgata secondo cui in Italia ci sarebbero delle pene troppo miti, l'assismo della giustizia che inciterebbe le persone a delinquere, che però è una falsità non sostenuta da nessun numero, e anzi al contrario, se si guarda alle pene in una scala comparata, in una prospettiva che prende in conto altri paesi europei, si vede come al contrario in Italia per molti reati sono previste delle pene troppo dure, un ricorso al carcere che poi comporta una maggiore recidiva, una maggiore facilità a ritrovarsi nella situazione in cui si è portati a delinquere. Quindi insomma si propongono tutta una serie di misure che, secondo il classico dettato populistico, dovrebbero rispondere a un bisogno di sicurezza da parte della popolazione, un bisogno ad arte alimentato da alcuni imprenditori politici, e che in realtà arrivano al risultato esattamente opposto, che è quello di produrre maggiore insicurezza, perché producendo più carcere, producendo pene più alte, insomma si aumenta anche, si favorisce la spirale della recidiva e in ultima istanza si produce più insicurezza nella società. Recentemente, insomma negli ultimi mesi, anche attraverso il dibattito attorno alla riforma dell'ordinamento giudiziario, si parlava di più misure alternative al carcere e sembrava, come dire, una direzione finalmente da intraprendere. Questo rimette in discussione tutto? Beh, direi che in questo caso, stando a quanto è stato annunciato, stando anche ai programmi di queste formazioni, si va nella direzione esattamente opposta. Ci sono stati dei tentativi anche recenti, anche il Presidente della Camera aveva chiesto che venisse approvato la riforma dell'ordinamento penitenziario, però siamo al punto in cui siamo, così non è stato e nulla lascia pensare che così sarà. Anzi, le commissioni speciali hanno deciso di non iscrivere all'ordine del giorno, di non iscrivere tra i propri compiti quello della presa in conto del decreto governativo, e mi sembra evidente che ci sia una volontà politica di segno opposto rispetto a quella che in maniera pur timida aveva espresso il cammino che aveva portato alla riforma, ai decreti.